con Francesco Notarangelo di Mescalito Film per parlare dell'uscita in sala del film Ti porto io di Chris Karcher, in uscita in sala il 2 ottobre prossimo. Francesco, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti, ciao Federico. Ce lo descrivi intanto? Sì, certo, assolutamente. È un film che riguarda il Cammino di Santiago, un film documentario, e che racconta l'esperienza di questi due amici, uno dei quali è disabile, quindi ha bisogno di una spinta, di un aiuto da parte del suo miglior amico per affrontare appunto il cammino. L'aspetto più interessante, al di là della, tra virgolette, moda del cammino, è questa esperienza in cui si ritrovano due persone, una con dei problemi fisici che rappresentano un notevole ostacolo, in situazioni difficili per un lungo lasso di tempo. Insomma, questo mi sembra un elemento centrale della vicenda. Infatti, ed è stato anche quello che ha spinto al fine di prendere l'opera, poiché volevamo appunto trovare un'opera che riguardasse il Cammino di Santiago, però non che lo mostrasse come un classico film in cui due pellegrini affrontano il percorso, ma che potessero gettare uno sguardo nuovo alla tematica. Quindi appena ci siamo confrontati con quest'opera, che ripeto riguarda il mondo della disabilità e tocca anche uno dei temi principali, che è quello dell'amicizia, abbiamo deciso di prenderlo. Poi abbiamo visto anche la qualità, che era abbastanza buona essendo un film di cammini, e abbiamo deciso quindi un 4-4-8. Senti, di Chris Karcher conosciamo altri lavori? No, è la sua prima opera, anzi ci hanno raccontato, siccome è stata fatta un'intervista su Insule Europee al regista, che l'idea è nata quasi per caso, era un barbecue. Patrick ha proposto quasi per scherzo la possibilità di affrontare il Cammino di Santiago, e all'improvviso hanno deciso di mettere su questo team formato inizialmente da 4 persone appunto per girare l'opera. Quindi Lemota Films, che è la casa di produzione alla quale ovviamente il regista fa parte, è nuova e lui è la sua prima opera, quindi in America è andato bene, speriamo che sia così pure in Italia. L'uscita finora è stata da solo statunitense? L'uscita al momento è stata solo statunitense, sì, e siamo credo i primi in Europa, mentre Sud America o altre parti del mondo non è mai stato considerato. Ok. Ricordiamo anche a chi ci ascolta le caratteristiche della Mescalito Film. Sì, certo. Allora, Mescalito Film è una casa di distribuzione e produzione indipendente, quindi svolgiamo il lavoro in maniera del tutto autonoma e spesso cerchiamo di organizzare delle proiezioni evento. A tal proposito, e aggiungo che ad esempio per Ti porto io, in ogni città stiamo cercando di organizzare delle proiezioni evento con esperti del cammino, pellegrini che l'hanno affrontato, che hanno affrontato diversi cammini, e oltretutto anche con la ISLA presente. La ISLA è l'Associazione Nazionale della SLA, quindi fondamentalmente con noi come Mescalito il nostro intento principale è quello di riuscire a portare in sala film indipendenti di qualità e crearci degli eventi attorno, quindi se siano questi con associazioni o persone altolocate in sala, o come dire, qualcosa che in cui la gente si senta attiva e non guardi in maniera passiva solo un film. Questo è il nostro intento principale come distribuzione. Allora, ricordiamo il film Ti porto io di Chris Karcher, in uscita in sala il prossimo 2 ottobre per Mescalito Film. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo. Francesco, un abbraccio e a presto. Ricambio, certo, assolutamente. Grazie mille Federica. Ciao. Ciao.